Salve a tutti gli amici di Radio Big World e anche oggi ci incontriamo per sviluppare i nostri pensieri relativamente a un argomento che desidererei risultasse interessante e di confronto con voi, con te che mi ascolti, con te. Il titolo dell'incontro di questo momento è Fatti e misfatti del 1900. Paolo e Franz erano due giovani del secolo scorso e morirono ventenni nella Prima Guerra Mondiale. Loro non volevano la guerra, non volevano andare in trincea, non volevano sparare, ma dovettero partire perché i potenti decisero così. L'essere umano non cerca la guerra perché ha paura della morte, ma i potenti, che sono un numero piccolissimo di esseri umani che hanno dalla vita tutto quanto si può desiderare, cioè la ricchezza, il sesso, il predominio sugli altri, sono malati di invidia, i potenti, e soffrono quando un altro potente ha più di loro. È così che nascono le guerre. I potenti continuano a vivere nei loro agi e mandano a morire il popolo imbevendolo di misture velenose come l'idea della patria e del nemico. Ma torniamo a Paolo e Franz. Erano nemici, ma non si conoscevano. Tutte e due erano innamorati della loro donna e quella mattina in trincea, all'ordine dell'assalto, corsero l'un contro l'altro. Paolo conficcò la sua baionetta nel cuore di Franz, che a sua volta sventrò la pancia di Paolo. Prima di morire non poterono parlarsi, avevano due lingue diverse, ma si comunicarono con lo sguardo quell'identico pensiero che sbocciava nel loro cuore. Ognuno pensò: perché mi stai uccidendo? Avevo promesso al mio amore di tornare sano e vincitore. Ambedue morirono. E il tempo passa. I potenti decisero che anche gli italiani, anche noi italiani, dovevamo avere l'impero come gli altri potenti europei e i nostri concittadini si mossero per andare a conquistare una fetta d'Africa. Giorgio partì per l'Abissinia, pieno di entusiasmo, sicuro dell'amor patrio e con un fucile a tracolla. Anche lui quando partì aveva 20 anni. Mentre faceva il militare invasore sotto il sole cocente dell'Africa, incrociò una donna di colore, bellissima, che teneva per mano un piccolo bambino. A 20 anni gli ormoni non si controllano e lui approcciò la donna bellissima per fare sesso. Lei rispose con uno schiaffo. Allora Giorgio perse il lume della ragione, pensò che il bimbo fosse la causa del rifiuto della madre, lo prese per le gambine e lo sbatacchiò sul muro. Il piccolo morì in una pozza di sangue. La madre si mise a urlare e a disperarsi. E quella rabbia, quell'odio, quella tristezza che si erano impossessate di lei mutarono il suo viso e il suo corpo, che da affascinante diventò ripugnante. Gli ormoni sessuali di Giorgio si ridussero immediatamente dimenticò il desiderio verso la donna che era apparsa bellissima e col suo fucile a tracolla continuò il suo cammino canticchiando la ben nota faccetta nera, bella bissina, eccetera. Comunque era contento perché aveva obbedito agli ordini di Graziani. «Siate crudeli!» aveva detto Graziani. E il tempo passava. I potenti decisero la Seconda Guerra Mondiale. Il popolo, sempre riluttante alla guerra perché riluttante alla morte, lasciò le proprie case, le famiglie, il lavoro per servire la patria e contro i nemici. Questa volta si combatté con le tecnologie più raffinate, sicure per noi, devastanti per il nemico. Sarebbe un passo avanti per noi, ma purtroppo anche noi siamo il nemico degli altri. E la devastazione colpisce tutte le parti contendenti. Distruzione e morte per tutti, allora. Allora i potenti capirono che bisognava finire la guerra, ma pieni di invidia non ricorsero a trattative, ma sganciarono le bombe atomiche. In pochi istanti esseri umani e cose si volatizzarono, divenendo fumo per il calore intenso cagionato dal forno della bomba atomica. Tutto intorno desolazione e morte. E le radiazioni continuarono per anni a uccidere le persone che abitavano quei territori. Ma il tempo passa e avvengono ancora tantissime cose. Alcune sono belle, altre meno belle. Ne riparleremo. Siamo negli anni 50 del 1900 e alla radio si sente una canzone che è un antidoto per dimenticare tutto quello di triste che fino ad ora abbiamo ricordato. La canzone si intitola Nel 2000. Ve la canto, ma siate indulgenti per la mia cattiva pronuncia romanesca, perché io non sono romano. Siate indulgenti anche sul mio cantare, perché io non sono un professionista. Anzi, mi succede soltanto di rado di canticchiare, e quando lo faccio sempre da solo. Nel 2000, miei signori, tutto il mondo cambierà per quanto è grande e quanto è tondo. Ce l'avremo le grandezze del progresso e la vita non sarà la stessa adesso. E non avemo più paura de morì e presso a poco se dirà così. Io c'ho un appartamento sulla luna, non pago niente e fo come mi pare. Poi c'ho una cameretta in alto mare, quando è l'estate sto come un pascià. Poi c'ho il commercio della radiopesca, mio figlio sfrutta le stelle e fa il milorde, un altro l'ho impiegata al polo nord e grazie a Dio me posso accontentare. Nel 2000 i musei saranno pieni di automobili, di tramvai e di treni, gli autobus e i camion e gli sottomarini serviranno a far giocarli ragazzini, e noi viaggeremo negli razzi che già ci sa, e presso a poco sti viaggetti qua. Io vado qui in America un momento, perché m'hanno invitata a colazione. Me vado a fare a barba nel Giappone e in Abissinia vo a piar caffè. aspettami nel sole o nella luna, aspettami magari su da Marte, magari fatte una partita a carte, e fra mezz'ora sarò lì da te. E noi, cari signori, un ce saremo, tiramo dunque a campa come si deve, tiramo solamente a magna bene ed abbriacasse meglio che se può. Vi saluto e arrivederci al prossimo incontro su Radio Big World, la radio della simpatia. Ciao ciao!